Segnalito. Bye.

signore, se ci fanno andare così soli soletti. Io so che per me proprio non ce ne so. Magari si può fare una scappatina e con Gigino se è libero e poi rientrarci nella sera. Piavere o più. Bisogna sentire le dolci metà. Bisogna sentire loro. Io domenica sono libero, domenica e lunedì, poi martedì devo fare un salto alla Cinara per delle verifiche e poi vado, dovrei andare in ferie pure tutta la settimana, rientrare martedì per show, così mi sistemo un po' queste cose che ho lasciato indietro a casa e sono più libero per poi il periodo invernale, capisci a me? Me lo immagino. Le feste di paese sono sempre feste organizzate bene, no? Non organizzate così, no? Non è che lì poi soprattutto da voi stanno molto attenti a queste feste di paese, capito? Cappa, non so, sentiamo, oggi è venerdì, domani è sabato, sentiamo un po'. Adesso quando entra Antonio, vai cosa dice. Tra domani, domenica e lunedì. La domenica domenica, lunedì, perché la tengo sino a, ma anche martedì ciò. Sino a martedì. Devo approfittarmi di farmi queste commissioni, di portare su questa cosa. Queste cose. E poi c'ho alcuni, ho dei comodini, devo portarci giù in garage. Comodini, una sedia che c'è qua in questa stanza, non mi serve, devo portarci in garage, quindi mi devo liberare da queste cose, perché se no vado in ferie martedì e ho più cose da fare di quando sto lavorando, capito me, Pino? Che prendi te là. Sento Pino? Ah, ti ho capito. E allora sentiamoci Pino, sentiamoci. E quindi ci mettiamo d'accordo, adesso vediamo se è libero anche Antonio Falchetto. E quindi ci mettiamo d'accordo. Capito anche? E non lo so, un po' difficile mi vedrà, ma adesso vediamo, dai. Ciao Pino, c'è, dai, buona carica, buon tutto. Avanti qua. Ciao Pino, c'è voglia, ci sentiamo dopo, altrimenti alle prossime ti faremo sapere. Sta perdendo, no, guarda, convinto di fare grande, di fare l'esplorare in nazionale italiana, con cui si giocava lì, va a credere a Gesù lì. Voglia, che squadra è la squadra che non ho capito, per carità. Voglia. Ma c'era i difensori come una volta, no? Lui. Ma non va a giocare via difesa, no? In attacco, in attacco, però ha arrivato un'azione e un gol. Da cima l'ho preso. Ma non è a sui bicchieri. Se vuoi va. Purtroppo, ti cai. No, no. Sto guardando un pezzettino, ma non me la frutti nulla. Mi rilascio un po' qua alla radio, se no poi mi vieni tu lo giorno, invece a quell'ora si chiude e me ne vado a nanna, così domani mattina completiamo il QRL, facciamo un controllo generale, tutto, e poi gettiamo la spugna, passo le consegne a mio collega per domenica e lunedì. E chi si è visto, si è visto. Io la ghietta di travaglio mi l'ho fatta, ma fatta però me, con molto, molto impegno e sacrificio. Ho fatto tutta la vita del tempo, un peso umano in cui. E infatti, se è fatta la ghettata, è più, la ghettata è più, ma comunque ce la prendiamo a capire normale, sì, Claudio. E si conferma. Si conferma solitava alle tette, alle sette io sono. Io vado prima qua in via Milano, trovate a controllare il bacino, vedere se è calato, se è aumentato. Poi ci avevo recuperato 40 centimetri, ho aumentato anche un po' di i litri della pompa, quindi dovrei recuperare anche stanotte qualcosa. Vediamo. Le sono cose bisogna tenere sempre sotto controllo, se no se scendono sotto livello è un casino. Poi rischi che il quartiere rimane all'asciutto e allora bisogna controllare sempre. Ha pagato, ma nei rasconi cosa sapete i numeri dei metri segnati così? Io misuro con l'asta, tutte le mattine vado, entro l'asta in vasca, la vasca è alta 7,60 m, io ho un'asta da 10 metri, con tutta la misurazione, centimetri e metri, e misuro e guardo quanto c'è di all'interno, se per dire ce n'è dal, perché io faccio dallo sfiero dell'acqua sino al troppo pieno, capite? La mattina era dallo sfiero dell'acqua, dallo sfiero in vasca al troppo pieno erano 3,70 m, quindi fai 3,70 m, 7,60 m che apre la vasca meno 3,70 m. Sai quanto ne hai in vasca, la differenza. Ma usate quelle aste che più o meno usano il distributore di benzina, che misurano la benzina? Sì, perché se il ferro però è in PVC la nostra, il ferro va bene entrare nell'acqua quella, chiaramente è quella che arriva al bidiglio, quindi è già acqua, è grezza però è pulita, quindi un'asta in ferro ha sempre battito. Noi abbiamo un'asta in PVC che è messa all'interno di un contenitore stese. Ah, cappa cappa. Ah, così funziona. Ho pensato che avevate un'asta così in ferro, tipo quelli che usano il distributore di benzina, ma se mi stai dicendo che il ferro ci ha battiti, anche quello mi sembra più che giusto, dai. È ben normale che sia isolata l'asta e così, mi andrà bene meno, dai, già va bene così. Il bel ferro, durante sempre batteri. A parte il fatto che poi con la condessa e solo perché deve asciugarla sempre l'indomani mattina, già va la ruggina e quindi non va bene rimetterla nell'acqua. Qua c'è un'altra in PVC con un pomello e una bindella metrica a sonda, diciamo, chiamiamola così. Capito? Una sondina, una sonda, e si mette in acqua, c'è una pallina che sale e tira a livello. È tipo, posso dire, il termosifone per la meme, il termometro, dai, che ha il mercurio e sale, scende in base alla temperatura, diciamo, dai. Ma tu l'hai usato anche tu, un affare del genere, di quello che usi tu, la pompa con la bolla. Ah, ho capito, e quando teniamo dei vidi per i propri, tipo la pompa che siamo guidati. Un affare del genere verticale, capito? Proprio viene chiamata da noi bindella metrica a sonda, per misurare i vascoli, di altezza dei vascoli. In alcuni ci sono i misuratori di portata, in alcuni no, e quindi lo facciamo manualmente. In questo via Milano, ad esempio, non c'è il misuratore di portata, quindi lo facciamo manualmente. Mentre in quello di Monteoro c'è il misuratore di portata che tira a livello in vasca, in quello di Monteoro lo stesso. Capito? Poi sono molto più grandi, quindi sarebbe un casino fare la misurazione. Sono un bel funguti, insomma. Un bel funguti, capito? Quindi di nuovo avanti misuro questo, ma misuro questo, ci metto 5 minuti. Il problema è che devo prendere tutte le letture, perché ce l'arrivo da Sassari, l'arrivo dal Bidighindo, l'arrivo da Sennori, tutto lì, capito? E quindi devo fare le letture, fare i conteggi e poi sono da te. E poi siamo a te. Una volta ho fatto via Milano, prendo il caffè e me ne vado a Monteoro. E poi proseguo, a Monteoro proseguo. Gli impianti più grossi sono quelli. Via Milano, Monteoro, Tincurale, gli altri non è che in questo periodo sono tranquilli. Va bene, perché tu cazzo Balmadola non si già si strappa su perché andare a casa lei, va buco. Una cosa allucinante, mi ha dato un affare quest'anno al mago della corte, vabbè che sono due fratticine che sono sempre in fretta, ne vado a salire il cinghiale, la salire il vitello, l'altra di vera, non so cosa di ricavarli, e quindi sempre pure a questi anni consumano moltissimo, loro hanno un bacino d'accumulo che è 5,50 m alto per 20 di larghezza. A qua già ce ne sa, sono poche case, però cazzo me stanno consumando un bel, stamattina ce n'erano 2,50 m, cazzo, mi mancavano i 3 metri, 3 metri mancavano di altezza, infatti gli ho dovuto attaccare la pompa grande per recuperare, dovrei aver recuperato almeno 1 metro. Speriamo domani mattina, vediamo, perché adesso dovrebbero recuperare un po' tutti i bacini di utenza, anche molte ore sta iniziando a salire, ma abbiamo lavorato con livelli molto molto bassi tra l'estate, non abbiamo avuto grossi problemi, però adesso l'inverno lavoriamo a regimi molto più alti. Funziona così, aspetta, però tutto questo grande consumo, vabbè che ci sono tutte queste feste in mezzo, però che aspetta a consumare un bel po' d'acqua che ho consumato. Claudio, ma tu con cui ti sei acceso? Ma io qua c'ho quello di linea io, così mi scuola per 2 volte. Ma è acceso su internet e c'è anche, mi sta guardando le cose al computer, perché? Ma dico, mi sconnetta per caso, no? vecchio computer, no, ve la posso fare una cosa e l'altra. C'è Antonio, mi sto facendo le chiacchiere. Ma guarda Antonio. Cappa, c'è Luca, mi hai sentito? Perché con Telecom non ha niente a che fare. di Skype, anzi, non mi arriva neanche. Mi manda la fattura via email, avvisandomi che il pagamento a conto che ho fatto direttamente con addebito bancario. Quindi ci riprendo e basta. E mi mandano le mail che hanno dell'avvenuto pagamento via computer. Oggi ho chiamato la Telecom, voglio già che offerte mi faceva la Tiscali, in modo che loro mi facevano la prossima compagnia, io ho detto Telecom, non voglio più TD, non voglio più avere niente a che fare. A parlare il telefono senza usarlo. Anzi, 5 anni che ho fatto la visita per la Telecom. Non voglio più sapere. Secondo me sono un po' onesti. E ci vorrebbe un po' di onestà in tutte le cose, vedi? Poi quando perdono i piedi, gli vanno la bocca aperta. Peggio per loro che quando ce l'hanno il cliente basta trattarlo bene. Il cliente rimane, purtroppo se tu l'hai sollecitato parecchie volte e ce ne sono pregati, ne vada più che bene esserti messo con la tisca di capito. Beh, è normale se così no. Ma poi siamo in ingrugione, cosa io ho avuto il telefono Telecom, non fa, come si è detto, 50% di sconto più 50 euro di incentivo. Quando riceve 50 euro è praticamente la prima. Ah, è pagato. Perci 29, io ne pago 24, quindi sono sempre 5 euro in meno, non lo dava. Arrivano sempre messaggi, non tu al computer, ci abbiamo lì al computer. Arrivano sempre messaggi. E c'è sempre differenza, tu guardi, allora mandato lavoro a Fomburo, no? Si offende la pubblicità. 29 euro. E per 6 mesi ti fanno pagare 14 euro. Io per 6 mesi ho pagato 9 euro con Tiscali, per 6 mesi, comprese anche le telefonate. Adesso, dal prossimo mese, mi pare, da ottobre ne pago 24 e questi 29. Adesso, se cercano sempre di incularsi l'uno con l'altro, è vero. Ma bisogna stare attenti a queste cose, molto molto attenti. Quello che ho fatto io, i soldi nostri, dei sardi, va alla fine del continente, capito? No, come va? Tiscali è una società sarda e i soldi rimangono in Sardegna. Quindi mangiamo sempre noi. E qualsiasi problema c'è, perché io l'ho avuto quando per l'avvocato che c'aveva la casa sotto sopra, mobili e malevari, c'era il falegname qui, un casino, capite? Che strada facendo, io ho chiesto l'intervento per vedere dove passare il cavo, per mettere il modem, perché io ho il telefono nel salone, però il computer ce l'ho qua in questa stanza. E quindi mi hanno fatto passare un cavo sotto traccia, hanno fatto vedere tutto, hanno passato tutto loro, ma hanno controllato, il modem ce l'ho da un'altra parte. Capito? Quindi sono venuti, mi hanno sistemato tutto. Perché? Perché sono qua in c'è anche l'ufficio a Sassari di Tiscali, quindi è via Marsiglia. Sono venuti, hanno fatto tutto loro e qualsiasi cosa c'è, quando io ho problemi, anche l'altro giorno mi hanno chiamato, dicevo che c'è ancora un modem vecchio, quello che abbiamo dato la prima volta. Sì, siccome era in comodato d'uso, eravamo 5 euro al mese. Me l'ha già pagato Giaro mio, dice perché non ce l'ho messo e vediamo quello nuovo, quando volete venite prendetemelo. Cazzo, lì che invece non ti vado, nessuna offerta. È proprio vero. Anzi, se in caso se ti dovesse rompersi qualche cosa, devi pagare anche la giunta per dare un altro apparato nuovo, perché è così. Infatti così sì. Invece con loro non c'è nessun problema, mi hanno proposto loro, mi hanno telefonato, dicevano appunto, lì c'è ancora il modem vecchio, invece stavano guardando al computer, lo stavano fatturando, non lo so, questo sì, è quello che avevo attirato in comodato d'uso 2 anni fa, mi ha pagato lo mio, perché pagavo 5 euro al mese, quindi, infatti mi ha detto, sì, quello ormai è il suo, però se vuole un altro nuovo, se vuole l'altro nuovo, glielo mandiamo e facciamo come abbiamo fatto quello. Fa questo, sì, è di qualcosa che faccio, cioè non si preoccupi, glielo ritiriamo noi. sempre, insomma, addirittura c'avevo un problema che quando ero al computer squillava il telefono, non è che disconnetteva, rimaneva connesso, però non mi bloccava, non andava né avanti né indietro. Gli ho telefonato, poi così così, dice proviamo, ma adesso telefoniamo lui, mi ha telefonato, sono andato a il telefono, ho detto guardi la linea del computer, sì, la mando al tecnico, molto tecnico, ha messo due filtri, uno sulla linea principale del telefono e uno sulla linea del modem, boh, finito, non l'ha più assolutamente fatto. Quando si è fatto una cosa con un centro critico dovrebbe andare tutto bene, e io penso che sia come garanzia sia come tutto sono più, ma a parte anche la gentilezza che non ci sono soldi a pagare, perché uno quando è scorbutico te passa anche la voglia di parlarci con queste persone qua, capite? Va bene così già, i pipì trattano bene, stanno bene, lui e la pipina vanno bene, che basta tagliare i piperi e vedrai che già si abbassano anche loro. Infatti io mi piace poco, ma per potere, se collabori che spieghi bene le cose, come stanno, eccetera, per me va tutto bene, ma non commenti con questa cosa proprio, allora non ti rispondo neanche, chiudo il corpo e basta. O quando insisti come fanno a volte, ma non vuole fare ascolti, non mi faccio fare te, poi addirittura stavo a te le due. Io sono già cliente e tischiali, non ho problemi, perché mi deve far perdere tempo, mi deve fare... Ho detto sì, gentile, arrivederci. E oggi sono da dove? Allora mi trovo a telefono. Sono ancora. Guarda, io ho già chiamato la sua collega prima. Sì, ma non c'entra niente, abbiamo due linee diverse, ascolti, fatti una cosa. Non mi chiamate più a me, che se no vi rimando tutti normali, ho detto proprio così. Sì, perché dopo diventa vacillante, la verità si dica. L'ha chiamata la collega, ma la mia linea è diversa dalla mia collega, eccetera, eccetera, la chiamata, non ho capito io, quello è una cosa assurda, veramente, guarda, non hanno un briciolo né di educazione e né di niente proprio. Se mi cazzo poco quando su cucucato mi dopo pranzo, che squilla il telefono e gli imbecilli, mamma mia, cara, tu immaginati tutti i miei colleghi sanno che io sono disponibile anche al telefonino, anche sono in servizio, dalle 5 in poi, a meno che non ci sia un problema grosso, allora mi chiamano, ma è delusione che un paio di giorni non mi devi vedere che ho mangiato, sono a casa, immaginati chi, mamma mia, ora cosa mi diceva mia moglie, mi ha un po', se non la vita è tutta, ora sono arrotto veramente, io mi, ma sai, lei la tiene nella mano, due, tre, due, e la trappo che mabu, insistendo, come mai, avevo fatto la ripetta ed era passata a Tiscali, ma non so di una puta te. Hai fatto quello che sto dicendo io, cosa mi ha puttana, che se tu hai dato disretta, sei passato a tizio, che hai sentito una cosa, mi ha puttana, cioè, padre, mi deve entrare, sapere cose di là, non ho capito. Ma che si faccia una tanca di cose sue e non lo fanno la scatola. Bravo, si è fatto togliere anche il numero della guida, figurati. Io non ci sono mai con la guida telefonica. Allora paga pure la guida telefonica, una puta scema. Cosa me ne frega? Non me ne frega assolutamente niente. Sono tutti costi che non servono a niente. Quindi, il numero del telefono lo vado, mi pare mi piace. Cosa che cosa che c'è la guida, tutti i giorni il numero di telefono doio e te rompe la balla. Oramai col sistema della privacy, se vuoi ti puoi inserire, se no mi dici nel modo più assoluto, fatti firmi un foglio per la privacy, il numero del telefono non sa nessuno, quelli che lo sanno vuol dire che gli hai dato tutto, perciò, cosa, perché voleva misura della tele 2 a futti, la futti 2 la pigliava, c'era un po', e poi la poco per in determinate ore. Dalle 2 alle 10. Ora figurati. Anzi, ci dove fare, ci mandiamo oggi il barattolo di Fabiera. All'orario. Sto dopo l'orario. Vabbè, i capiti, è tutta una truffa, è tutta una truffa, no? E fanno tirare la caramella e poi lasciamo perdere, è proprio quello, è proprio come se è vero, quello che stai dicendo, guardate, tirate una caramella prima e poi ti buttini, perché così, le tariffe devono essere uguali per tutti, per tutte le ore, diciamo, no? Da tale ora a tale ora, e se c'è un caso di bisogno e devi telefonare la mattina, ti paghi la tariffa completa. No, no, non va bene, non va bene, e non va bene, no. Ma è assurdo, il telefono lo bisogna usare quando non ne ha, ne ha necessità, bisogna dire che lo devo usare quando dici tu. E lì siamo a un caso, mi direi, telefono si usa quando non ne ha necessità, quindi siccome io ce l'ho 24 ore su 24, posso usarlo qualsiasi ora, non mi cambia niente, né tariffa né nulla. Questa tele 2 ce l'avevo l'orario, capito? Tariffe orarie. No, la pagavi tanto, non la pagavi tanto. Ah, a chi ve l'ha presente la però? Quando lei ha mandato, poi l'ho fatto io tutto il contratto, ho detto, ah, oh, io cos'era? Il contratto di tele 2? Dice sì, a me non mi interessa qui. Ho preso e ho fatto prima la raccomandata, come hanno ricevuto la raccomandata hanno iniziato a trattassarmi, nel frattempo io ho fatto la raccomandata, ho passato tutto a Tiscali e ho fatto il passaggio da via Pasquia qua, e quindi non ho perso assolutamente niente, non ho pagato niente perché non mi hanno fatto pagare niente, neanche il nuovo allaccio, ho fatto direttamente tutto il passaggio, solo che qua in più ho inserito il telefono. Perché là c'è il retro, però non lo usavo, invece qua lo uso e l'ho inserito. E quindi hanno fatto tutto, ma non sono visti pressati da Tisca che volevano la password per l'inserimento dei dati, si stavano scornando la telefono con me. Ah, Tisca Bideggi, e ti figuriamo molti. Ah, la giusta, perché non sapevano più attaccarsi, ho detto. Allora chiamavano il cliente per vedere se lo riportavano sulla buona strada, come dicono loro, poi alla fine è tutta una fregatura, è tutta una fregatura, esce una bocca, oh, io infatti poverino mio socio avevano fatto questo contratto e mi aveva accennato, ma io ho detto vedi tu, allora vivo con mio socio, dice io l'ho letto, io mi pare dai, mi pare voi, me ne va voi, sì, l'ho fatto, cosa fate lì? Cioè, intanto stai a discutere con i vecchi e alla fine esci mezzo giornato, poi l'ho fatto, poi quando loro non ci sono stati più, allora fate come ti dico io, perché quel contratto io non l'ho mai potuto avere, tutti tu mi dai una tariffa buona e poi se il telefono mi serve in ore, sono andato in fattina, ragazzi, tu mi guadagni, io mi becco, vai, caga. Sì, bene, fate così. Loro si giocano sul fatto delle tariffe, capito? Si giocano. Abbiamo chiesto a un cliente, vieni da tale ora e ti facciamo questo sconto, e da voi ti pone magari dei sussidi che ho bisogno, che devi telefonare a orari per dire fuori da quella tariffa e ti arriva a prezzo pieno. E dici guarda, dici ci basi, caro, capito? All'insaputa anche del cliente, non so tutti che lo sanno, appunto e vengono un po' tutti per quello. Ma infatti a volte mi faceva vedere mia socia, ma diceva guarda, come mai ha pagato di più l'altro mese, perché te lo leggo io, guarda, tu hai fatto queste telefonate a quest'ora, guarda il contratto, vedi, a quest'ora la tariffa è diversa, il gai esce, società inglese, quindi, con quella testa di nomi, una via, ma non gli speculavo vicino, e quindi, ma cosa facciamo? Mi diceva, c'è pensare, te lo animo qua, e te lo animo. La risetta deve arrivare, non c'è di fare, deve arrivare la risetta. E oramai l'ho fatta, non te lamentare. Io ci lo suocero, farò la disdetta, farai la disdetta, se ti vuole d'accordo, farai la disdetta, e non l'hanno mai fatto. E non c'è veramente una roba, era uscita a 4-2, beh, esami, no? Ho fatto subito perché non va bene. Non va assolutamente bene, è una mezza fregatura. Adesso si sta provando anche in volo a farmi le proposte, mi ha chiamato la Telecom proponendomi Alice per un anno, non so come c'è di razzi, Valle, Paivara, un televisore, non mangio. No, me l'ha fottuto, non ci vince la televisione, non ci guardo la televisione, non me l'ha fottuto la televisione. Non so che la fammi, che sta televisione mi regali e alla bue mi ripeti 30 euro ogni bimestre di tasse, vai che cavai. Sì, a parte ti ricordi un periodo i cellulari a contratto, aspetta, ma arrivavano certe bollettone, sì, io te le posso, io voglio, come si spiega sta cosa? Ma la sorte della già pianeta, la guadagna stavano facendo, cazzo, ma la bolletta capogetta, no, ma una cosa non ti stretta immediatamente, ma allora erano uscite le schede. Avevo comprato le schede, ma a casa con quei contratti così pratico a noi, no, è mai più, mai più. Ma io, guarda, con la Telecom era una cosa allucinante perché da quando io sono venuto a abitare qua, proprio da quando ero su al nono piano, avevo il telefono. Non usavamo molto perché avevamo già i telefonini eccetera, quindi no, mi guardavano 40 euro di tasse e 20 euro di traffico telefonico. Ma non ve la vai, mi sono rotto la palla un giorno, ho giubilato e ho detto tutto. Ci hanno messo, poi mi chiamavano, ma qui, ma là, ma guardi che non è così, ma come ti arrivo la maletta, non ho giubilato la prima. Arrivo la seconda, non ho giubilato, e mettiamo tutto a parte. Ho fatto una cartella e dice così, in morosità se me lo stacchi il telefono. Allora mi avevano telefonato, dice che sono parato le bollette, mi mettevano il telefono sulla ricezione. Aspettavo quello io, fate che non volete. L'hanno messo prima ricezione, quindi hai saccato tutto. Quando ho attaccato tutto, sono troppo, ho preparato la bolletta. Immagini mio padre. Non lo volevano attaccare, ma hanno attaccato a qualche morosità. Dubbio, perché sono stati costretti, capite? Come loro l'hanno attaccato, io non c'avevo già le bollette pronte, sono andato laggiù bagatti. Se non facevo così, non me lo attaccavano. Stavano sempre telefonando, che non era così, che l'IVA si pagava, poi avevo l'IVA si pagava. Ho due telefoni, uno in camera da letto e uno al salone, e si andavano a punto linea, quindi ad un telefono, a un punto di telefono, a un punto di altro telefono si prendevano. Allora, solo 10.000 lire più IVA, due telefoni. Si pigliava di là di un telefono, si pigliava di là di una bolletta, più IVA, il coso fisso, il tasso fisso, non so quello che ti aveva scritto la mano, insomma arrivavi a 40.000 lire più IVA, 40.000 lire più IVA senza usare il telefono, e 20.000 lire, 19.000 lire di traffico telefonico, vai, caga, vai. Sì, in poche parole tu pagavi più di tassa che di traffico telefonico, in poche parole. Sì, ma poi io evidentemente avevo quello che avevo costruito qua perché ci sono in tutte le stanze i punti del telefono, anche in questa stanza infatti c'è il computer collegato e nella stanza mia figlia, mia, che aveva letto nel salone, dopo le parti, sono dentro ce ne sono due, uno su una parete e uno sull'altra parete, no, erano fatti bene gli impianti, per quello sì. Allora, quando io ho chiesto l'allaccio telefonico, mi avevano detto quanti punti vuole? Due, uno, e se non la camera da letto. Se sono collegato che squilla il telefono, me lo portare. E allora facevano pagare anche quello, capito? Ti facevano pagare i due punti che loro si danno la linea. Non c'è più un telefono, e due telefoni c'è adesso, avevo due Sirio, mi ricordo sempre. Invece adesso i telefoni non te l'hanno più, nulla, tu devi comprare. Infatti io ho due portatili sia nel salone che in camera da letto. Ma diciamo che grave i cavetti, non si usano più. Ho due Samsung molto belli, che sono un telefonino, piccoli, con dentro proprio il suo caricabatterie, è sempre attivo, squilla come un telefono normale, te lo puoi portare per tutta la casa, non c'è nessun problema. Non c'è nessun problema, per dirti no, che ci provano sempre a chissà gli antivinelli, i vecchiariti che sono pagati una vacca di nana e nessuno le dice niente, capito? Io, vabbè, la società qua, quindi io vicino, e quando c'era qualche problema lo faceva sempre vedere. Però era in dolce, non ha mai cambiato. Da quando era passata a Tele2 rimaneva un Tele2. Infatti l'altro giorno stavo guardando una bolletta io degli scatti che ho fatto io, e degli scatti che faceva lei pagava sempre 20, 25, 30 euro in più di me. C'è tutto, poi alle 6 siamo già a casa, non c'è problema. come magari capita qualche sabato, ci riuniamo tutti assieme, con le mogli, eccetera, mangiamo una pizza, qualche spuntino, qualche cosa, cioè. È giusto per passare un po' di tempo, stare in compagnia. Ehi, è così si fa. E la padroncia. Buonanotte e buon tutto. Grazie alla compagnia. E ci vediamo domani mattina. Kappa kappa. Ciao. Tanto ciao. Buonanotte a domani, kappa. Sì, ciao, buonanotte.